rapì poi parole le vini eri ancor avean felici silenzio udite giorno gli amici Thank you. già questo Alfredo. Non un detto, non un detto. Ancora hai vinto, sfortuna nell'amore, fortuna reca il gioco. E sempre vincitore. Oh, vincerò stasera e l'oro guadagnato. Poscia goder tre campi, ritornerò beato. Solo. No, no. Tale chi vi fu meco ancora. Poi mi sfuggia, pietà di me ignor. Frenatevi, o filascia! Barone, m'appellaste! Siete in sì gran fortuna, al gioco mi tentasse. Sì, la disfida accetto. Io di me, morimesendo, pietà grandio, pietà grandio di me. Cento luici a destra, e dalla manca cento. Un asso, un fante, hai vinto il doppio sia. Un quattro, un sette, ancora, or la vittoria è mia. Brava la bella sorte, e tu grada. Per ora non possiamo, più tardi la rivincita al gioco che vorrete. Seguiam gli amici, poscia sarò sol bramere. Andiam, andiam. Taci! No! segno. Se stesso rende, e pur nell'ira la donna offende, dov'è mia figlia? Io non la vedo, intente più al freddo, provarlo no, non so, dov'è mio figlio? Basti che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'anima, più non ragiona, dalle perdono, più non avrò, vuole affoggirla, non ho potuto, dagli la spinto, son qui venuto, orché la sdegna, ho disfagata, m'è sciagurato, rimorso, no. Questa mondo, a questa mondo, la tua censura, qui tu non vedi, Alfredo, Alfredo, che fu